Now boarding. Una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandare giù. Senti che come sei intonato questa sera, ok? A Detroit. Keiko è l'unica persona che non fuma e riesce a avere la voce roca lo stesso. Mi ha spiegato? Stasera siamo simpatici, Keiko. Siamo in versione Ricky Torri e Keiko Zlago versione simpatia. Vai, vai. Dai, ci siamo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Questa è Now Boarding, Radio San Donato 102.200, il programma degli italiani che hanno vissuto all'estero, o ci vivono, o ci vivranno. Anzi, ci vivranno no, Checco? Questa sera ci vivranno, direi, ci ma vivranno. Anche hanno vissuto. E hanno vissuto, bene. E direi che abbiamo detto tutto. Grazie sì. Di tutto, ragazzi. Buona serata. E vi mettiamo, Checco, gli mettiamo tipo mezz'oretta di musica random. Musica random. Dai, e direi che intanto ci ascoltiamo Katie Tunstall con Silent T. Che Silent C, è l'ora del tè, erano le 5, insomma, sono un po' in ritardo. Dai ragazzi, prego, Keiko. Silent Sea di Katie Tunstall. Mi ricorrego per chi non l'avesse capito, non era l'ora del tema, siamo a Now Boarding, quindi direi che potremmo anche cominciare. Checco. Sì, cominciamo. Silent Sea, mare silenzioso, entriamo subito nell'atmosfera. Nell'atmosfera. Siamo all'estero, ma la terraferma non ci bastava più. No, ci eravamo stancati, direi. Esatto. Un po'. Esatto, quindi vi raccontiamo come si sta su di una nave, vero Marco? Assolutamente sì. Ciao Marco, benvenuto a Now Boarding. Ciao. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Perfetto. Lo sentiamo arzillo. Direi che... non so, che cominciamo col terzo grado. Sì, cominciamo a fare il nostro sporco lavoro e a sbrigare un po' di pratiche. Andiamo con il terzo grado. Allora Marco, ti facciamo un po' di domande. Età intanto? 29. Di dove sei? Sono nato nella provincia di Ravenna, ma risiedo verso Lecco. Ma sei romagnolo? Sei romagnolo, sì, ma dai, va bene, cosa fai allora? Che ecco? Cosa fai nella vita? Nella vita faccio il geofisico. Il geofisico? Non ci ha detto niente questo. Che tipo di formazione universitaria hai seguito, quindi, cioè, che università hai fatto? Io ho fatto ingegneria delle telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Che comprendi sempre. Io prendo spunti. Dai. E quindi, ma in nave, cioè, Keiko ha iniziato dicendo che parliamo di vita in nave questa sera, ma in nave cosa sei andato a fare? In nave sono andato a elaborare le misure elettromagnetiche sottomarine che facevamo con la nave, perché in sostanza cercavamo petrolio. Per dirla un po' in soldoni. C'è da fare delle ricerche, insomma. Quindi se io voglio trovare del petrolio sotto casa mia, chiamo te. Ma se vuoi, poi non garantisco di trovare qualcosa. Vabbè, lo senti, non garantisco di trovare qualcosa. Va bene. Non so, Keiko, vuoi chiedere qualcosa a te? Sì, quindi quanto tempo sei stato a bordo? Sono stato a bordo 6 settimane. Ok, un mese e mezzo, insomma. E quando era? Recentemente? Ma no, 2009, agosto 2009. Ho capito. Un paio d'anni fa. Era la prima volta che facevi un'esperienza del genere? Che andavo in nave, sì, assolutamente. Mai stato prima. Ok. Invece trasferte all'estero, cose del genere, ti erano già capitato, ti capitano? Più che mi erano capitate, mi capitano, perché facciamo sempre acquisizioni elettromagnetiche anche a terra. Mm-hmm. L'anno scorso sono stato 2 volte in Turchia, per dire, insomma, sì, capita di andare. È un ragazzo che gira abbastanza, mi sembra. Esatto. Diciamo che sei adatto, stai superando la prova, dopo ti diamo il voto. Ma va quindi bene, se d'accordo. Ti ricapita lo rifai? Cioè, se ti ricapita di andare in nave lo rifaresti? Dipende per quanto e dipende anche un po' dove, però sì, perché no. Ah, ok, buono, dai. Hai delle trasferte o stai per un po' in Italia, sei un po' tranquillo qui? Ma adesso dovrei stare un po' tranquillo in Italia, però non si può mai essere sicuri. Di solito il tempo di preavviso per queste cose varia fra i 2 giorni e i 15, quindi... Ah, sì, molto, molto breve. Il quindi. Primo zampillo, esatto. Di petrolio, lui si pionda. Ecco qua. Vabbè, quindi diciamo che è stato carino, no? Sì, come sì, risposta sì. E tutto. Sei stato bravo, Marco. Sì. Sì, sì, bravo, bravo. Abbiamo aperto la sua pratica, ora le faremo sapere. Le faremo D'accordo. Sapere, sì, sì. Ci ascoltiamo Ciclette con banana. Gilberto Gil. Gilberto Gil, muovelo, muovelo. Só põe bebop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pegar o pandeiro e nos abumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Um batuqueiro raro, baco de gapapá, beru beru beru bambapapá, beru beru beru bambida. Quero ver a grande confusão. Bamanama, oh, e banana, não, amarok. É o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Babo do gapapá. Quero ver a grande confusão. Dedo do bar, água, mamã, meira, água, e água, mamã, meira, água, e água, me mamã. É o samba rock, meu irmão. No meu samba, quando o tio Sam pega, pega, pega, pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e nos usar bumba quando ele entender que o samba não é rumba. E eu vou misturar Miami com Copacabana, chicletes eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Badoguerorerobá, tá, babá, papê, papá, padê, papá, papê, pá. Quero ver a grande confusão, badobabá, peado, barabobabá, terambambá, terambambá, pê, papá. É o samba rock, meu irmão, mas em compensação, quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, Iga. Amababá, bababá, bababá. Quero ver a grande confusão. Bapida, papê. Rieccoci a Snowboarding. Marco, ci sei ancora? Sono sempre qui. Eccoci. Allora, ti ho detto che quindi tu, insomma, ti sposti frequentemente per lavoro, per questa sorta di ricerche, esplorazioni. Quindi come funziona? Tu lavori per una ditta italiana che ti manda in giro? Com'è? No, io lavoro per una principale società di servizi per compagnie petrolifere. Siamo circa 100.000 in tutto il mondo. Detto niente. Quindi no, siamo grossi. Comunque la canzone voleva dire gomma con la banana, se ti interessa. Avevo intuito fosse qualcosa del genere, ma... Bene, puoi continuare, che scusate l'interruzione. Era una mia curiosità, scusate, prego. E quindi, insomma, tu cosa vai a fare? Allora, sostanzialmente a me arrivano le misure che facciamo direttamente sul campo dagli operatori, o quando sono sulla nave da quelli che tirano sui ricevitori dall'acqua, o quel che l'è. Io le controllo, che sia tutto a posto, dopodiché le elaboro velocemente e a quel punto lì sono pronte per essere utilizzate dai geofisici in ufficio per poter cercare di fare una mappatura del sottosuolo. Ah, quindi tu sei un po' quello che dice qui ce n'è, qui non ce n'è. Sì, alle volte sì. Perché c'è qualche posto? Farlo, quindi... Non è che c'è qualche posto buono da consigliarci, dovessimo metterci a scavare? Ah beh, per quello il mare del nord va benissimo, il problema è che ci hanno già scavato in tanti. Eccolo, vedi che... Bisogna trovare un posto alternativo. Oppure cambiare business. Adesso la geotermia va molto, quindi magari... Quindi calore sottosuolo, stiamo parlando di questo? Sì, esattamente. Cioè, tra le varie cose non cerchiamo solo petrolio. Ultimamente mi sto occupando anche di geotermia principalmente, quindi... Ho capito. Qui, cioè, noi ricchi... Di sottosuolo, quanto ne sappiamo? La pista per le biglie in spiaggia, forse? Sì, no? Hai una domanda alternativa. Cioè, no, cioè, del sottosuolo, sapete? La mia nonna aveva un bell'orto una volta, c'erano le talpe e mettevamo gli ultrasuoni. Io di sottosuolo mi fermo lì. Sì, erano bellissime le talpe. Che venivano... No, aspetta, non parlo perché sono gli animalisti dopo. Dai. No, a parte, cazzate a parte, a bordo della nave com'è che sei arrivato? Cioè, siete partiti tutti quanti dalla terraferma o sei arrivato con un'altra nave? No, siamo partiti tutti quanti, sono imbarcati dal porto di Fortaleza, perché praticamente si va per turnazioni, si fa periodi fissi. Noi la turnazione che facevamo era a blocchi di 6 settimane, quindi ogni settimana la nave normalmente andava in porto, caricava chi doveva salire a sostituire l'equipaggio e scaricava tutto l'equipaggio che sarebbe risalito poi 6 settimane dopo. Ascolta, dove si trovava più o meno? Si trovava dato il Brasile, sì, la punta più a est nell'oceano. Ok, quindi è comunque a largo delle coste brasiliane, no? Sì, molto vicino all'equatore. Ho capito, in territorio brasiliano, cioè in acque brasiliane. Sì, sì, assolutamente. Ho capito. Quindi, insomma, tu arrivi a bordo. Io arrivo a bordo e si parte la notte stessa. Prima si spriga quel minimo di burocrazia che serve, in realtà pochissima perché qui si è già fatto a terra. Si prende e si parte, si raggiunge la zona dove si deve fare l'acquisizione, che è stata concordata con un cliente, il quale è interessato alle misure lì, e si comincia subito ad acquisire senza problemi. Sappiamo già dove dobbiamo lasciare i ricevitori, dove dobbiamo passare, dove dobbiamo fare le nostre linee. Ho capito. Si comincia. E quindi la vita quotidiana come si svolge? Allora, la vita quotidiana va a blocchi di 12 ore netti, perché la nave, avendo un costo esorbitante, ai tempi si parlava di qualcosa tipo $70,000 al giorno, una cosa del genere, e si produce a ciclo continuo. Okay, sia di giorno che di notte, di conseguenza ci sono c'è l'equipaggio del giorno e l'equipaggio della notte, ci si dà il cambio appunto ogni 12 ore. Io avevo il turno dalle 6 del mattino alle 6 della sera. Ti andava anche bene? Mi andava benissimo dal punto di vista della comodità di orario. Sì. Purtroppo erano le uniche ore di luce disponibili. Ah, ok. Per cui io quando staccavo era buio, e per cui sono tornato dal Brasile bianco come un... Non vedevi mai il giorno, praticamente. Infatti, più o meno sì. Ma quindi sei stato solo in Brasile o in altri posti? In nave solamente al largo del Brasile, anche perché ne abbiamo acquisito parecchio. L'ultima capatina che ho fatto in terra l'ho fatta in Turchia, che mi sono fatto dalla costa occidentale fino al centro in svariate zone. Ah, ho capito, ma quindi la giornata tipo com'era? Allora, la giornata tipo è sveglia alle 4:30-5, sì. Ti alzi dalla tua cabina, sì. Lì eravamo fortunati, avevamo una cabina a testa, c'era abbastanza spazio. Uh-huh. E scendi al piano di sotto su queste scalettine strette, fai una colazione più o meno pietosa preparata da dei cuochi filippini che sono lì da non meno di 3 mesi. Okay. Perché quelli non scendevano ogni 6 settimane. Okay. Preparata con quello che c'era, nel senso che i primi giorni sono ancora le uova, c'è ancora la frutta, tutto. Sì. Poi man mano che passa il tempo diminuiscono le razioni. Sì, sì. E c'è un po' quel che avanza. Dopodiché si andava nell'ufficio, che era in sostanza nella cabina di pilotaggio in cima a quello che c'è sulle navi, la torre principale. Mm-hmm. E davi il cambio a quello della notte. A quel punto cominciavi a guardare i dati man mano che arrivavano, a elaborarli man mano che arrivavano, finché non si facevano intorno alle 11, al che scendevi di nuovo per pranzo, risalivi altre 6 ore finché non si faceva l'ora di cena, scendevi, risalivi e aspettavi che arrivasse quello a darti il cambio. Quindi insomma dei turni anche lunghetti, insomma 12 ore. Certo, ma e tutti i giorni questo? Tutti i giorni, okay. Sabati, domeniche compresi. Senza giorno libero? Sì, assolutamente sì, anche perché anche avendo il giorno libero in nave a top miglia dalla costa. Beh, con le liberalizzazioni diciamo che siamo arrivati un po' tardi noi che... Sì, a lavorare sempre. Ma infatti era proprio questa la domanda, cioè in realtà la curiosità era, ma uno quando c'ha il tempo libero si trova in mezzo all'oceano, comunque cosa fa? In realtà di tempo libero mi dici che avevi la notte. Esattamente. Dove andavate a ballare? Sì, stanno di ballettini esagerati, no, in realtà le uniche attrazioni possibili erano la sala cinema, ovvero un salottino da 3x3 metri, equivalente, sì, di una stanza singola più o, sì, meno, con un televisore e due divanetti. In quanti eravate dentro? Dentro la nave? No, dentro al cinema. Ah, dentro al cinema. Ma dipendeva un po' dagli orari, si oscillava da 1 a 6-7 persone. Ah, ok. Vabbè, dai, accettabile. Sì, dipende quando staccavano i messicani che lavoravano sul ponte, loro si trovavano tipicamente lì e erano loro che facevano gruppo, gli altri poco, okay, per la verità. O altrimenti e c'era poi cosa un container palestra, sì, con 2-3 attrezzi a chi piaceva, sì, o altrimenti c'era la pista d'atterraggio dell'elicottero. E lì? Quello era l'unico spazio agibile per un pedone sulla nave, perché sul ponte c'era tutta la strumentazione e non si poteva andare. L'unica era questa pista d'atterraggio giusta, tonda, uh-huh, in cima alla nave, sopra tutta la plancia di comando. Uh-huh. Perché cominciavi a fare 2 passi in senso orario, poi dopo 10 minuti cambiavi senso, e questo era il massimo dello svago. Scene da manicomio, praticamente. Sì. Ma tipo facciate 2 tiri a pallone lì, non vi lasciavano? No, perché ovviamente... C'era l'elicottero. Sì, ma... Però c'era un marinaio polacco che aveva il lettino, sì, e si metteva a prendere il sole. Il migliore, vedi, questo. Il polacco. Il polacco, immagino avesse il turno di notte. Assolutamente. Sì. Vedi? Lui è tornato abbronzatissimo. Ha raccontato che è andato a passarsela in Brasile. Proprio così. No, infatti sono tornati, i miei amici non ci credevano. Perché completamente bianco. Bene, dai. I sbagli erano questi. Beh, insomma, direi che uno volendo passava delle gran giornate, insomma, no? Sì. certo. Ascolta, visto che siamo in zona appunto, siamo al largo del Brasile, noi continuiamo con canzoni appunto brasiliane. La prossima, Antonio Carlos Jobim e Elis Regina con Aguas de Março. A dopo. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Canga, é uma Tita Pereira. É madeira de vento da ribanceira. É um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira. É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo, pingando, é uma cor, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, agro, hidro, vida, ol, ponte, corte, aço, sol. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, azana mienya, anandede, anandede. Un assaggio di Brasile e ritorniamo a noi, Marco. E dicevamo che appunto ti facevi un sacco di ore, cioè orari un po' sfasati, non vedevi il giorno, eccetera eccetera eccetera. Abituarsi a questo tipo di vita com'è? Cioè è fattibile come cosa? È troppo lungo, 6 settimane? È troppo corto? Avresti resistito di più? Allora guarda, abituarsi alla quotidianità è impressionantemente facile, sì. Perché lavorando così tanto ed avendo i tempi così cadenzati dai pasti e dalla luce, sì. Tu prendi il ritmo praticamente subito. Uh-huh. Una volta passato i primi 2 giorni di un po' di mal di mare, che poi ti abitui subito, sì. Poi è come se fosse sempre stato così. Ho capito. Ma... Viene da sé, insomma. Anche perché non hai poi tempo grande di annoiarti, poi passate le 12 ore, cioè per il resto dormi, mangi e magari ti guardi un film e sei a posto. Sì, sì, sì. Sulle 6 settimane il discorso è un pochino diverso, nel senso che fino alla 3ª settimana va liscia, mm-hmm. ma proprio tranquilla. E dopo inizia a fare il conto alla rovescia di quanti giorni ti mancano. È arrivata la 4ª, cominci a sentire il peso del mese. Oh. Arrivata la 5ª dici no cavolo, io devo tornare a casa, qua non ce la faccio proprio più. Sì. Arrivata la 6ª conti i minuti. neanche i giorni, i minuti, perché non ne puoi più. Anche per un discorso forse di spazi, no? Cioè rimanere in spazi comunque limitati, angusti, no? Sì, assolutamente. E poi tra l'altro in una convivenza forzata piuttosto intensa, nel senso che non è solo una famiglia stare in nave, perché alla fine, cioè, si vive in spazi stretti tutti assieme, non è una famiglia ma quasi, ma è un gioco a incastri, non si, visti anche i tempi che si hanno ridotti, per il lavoro, certo. L'interconnessione fra tutte le varie funzioni è talmente precisa che non ci si può permettere il lusso di urlarsi, mandarsi a cagare qualche volta. Sì, zero. Esatto. Ma quindi, ma episodi strani, c'è qualcosa che vuoi raccontarci? O... episodi strani in nave se ne vedono un po' sempre, più che altro legati al fatto che ci sono le persone del tipo più disparato. Tipo, mi ricordo un paio di episodi di questo ragazzo, 32 anni, 4 figli, il più piccolo di 2 anni, il più grande di 6. Che faceva quel mestiere perché aveva bisogno di soldi, in sostanza era meglio pagato che a lavorare fuori dalle navi, quindi lo faceva, che il problema è che c'era, insomma, lì si voleva separare, per cui c'era questo qua che stava 6 settimane a casa, 6 settimane sulla nave, doveva gestire la famiglia, tutto. La famiglia con, insomma, una separazione così. O se no, altri un po' meno drammatici, c'era uno scappato di casa, scapolo per convinzione, a più di 50 anni, che erano 30 anni che faceva questo tipo di vita, che una mattina si era in porto, e a un certo punto si va a fare tutti quanti colazioni e scende anche lui, accompagnato da una bellona alta, stanga, insomma una prostituta che aveva rimorchiato la sera prima, e non solo se l'era portata a bordo in cabina, ma se l'era pure portata alla mensa a mangiare con tutti, il capitano che lavorava con due occhi. Quindi questo era un po' così, noi, un personaggio a sé, insomma, figure strane trovato da quelle parti. Beh, sì. Ma tu sei partito con dei colleghi da qua, o tutti questi facevano parte dell'azienda, però magari da altre filiali in giro per il mondo, eccetera? No, questa era gente che faceva quel mestiere solo sulla nave. Io, il mio mestiere non è sulla nave, il mio mestiere è in ufficio, poi quando capita vado a lavorare alle acquisizioni. Ah, okay, però okay. Questa era gente che faceva solo acquisizione di mestiere. Ok, quindi non faceva parte di questa ditta Schlumberger, no? No, sempre per quella ditta lì, però un altro ramo d'azienda. Ah, ok, ho capito. E quindi tu non ne conoscevi nessuno prima di partire, insomma? Ne conoscevo solamente uno, che era un altro che andava a elaborare i dati, però che lo faceva con continuità, che era la persona più tranquilla poi che c'era a bordo alla fine. Ho capito. Perché era l'unico altro italiano a bordo. Quindi eravate gli unici due italiani, mi hai detto, sì? Sì, c'eravamo noi italiani, poi c'era un gruppo di messicani emigrati negli Stati Uniti, che erano 6 o 7, 2 indiani, 3 filippini, un russo, ce n'erano 3 o 4 dall'ex Jugoslavia, distribuiti tra Croazia, Serbia e non mi ricordo esattamente come. Una trentina di persone, insomma. Sì, 30-35 persone. Ho capito, ma sei riuscito a rimanere in contatto con alcuni di questi, magari dopo, o finita l'esperienza? A parte l'italiano, mio collega che ancora ogni tanto sento, gli altri li ho persi tutti di vista, completamente. Ho capito, quindi non è che si riesce, che ne so, a fare delle amicizie, delle... Si riesce, volendo, però occorre entrare in quel modo di vivere, in quel circolo di vita e... occorre anche incontrarsi, ed essendo gente che risiedeva negli angoli più disparati del mondo, nel senso, a parte l'italiano, quell'altro che aveva più vicino era Ilia, che abitava, non mi ricordo che paesino, spesuto da Siberia. Quindi non è neanche poi comodo trovarsi. Sì, normale. Ma quindi altri episodi strani, cioè, e altra gente un po' fuori, cioè, io, sai cosa, io rimango tanto impressionato quando magari vedo i film delle navi, dei sottomarini, cose così, che vedi c'è sempre il pazzo di turno, no? Non so se un paio di pazzi dichiarati. Uno era questo russo, Ilia, sì? Che era una specie di sociopatico arrabbiato col mondo. Inteso, lui passava le sue 6 settimane sulla nave a lavorare in silenzio totale con Beethoven a palla di sottofondo. poi? E quei rari momenti di socialità che aveva, raccontava di quanto era felice, di quando sbarcava dalla nave, tornava a casa e passava le 6 settimane che aveva a casa davanti al computer a giocare ai videogame. E questo... ah, età questo? Questo allora aveva l'età che ho io adesso, quindi 29-30 anni. Madonna. E anche 29-30 omicidi probabilmente sulle spalle. Sulle spalle. Molto probabilmente sì. E quindi questo era uno. Immagino questo era l'altro. L'altro era un serbo, non mi ricordo esattamente il nome, che era un mussoliniano fascista vecchio stampo. Oh mio Dio. Ma di quelli che rasentava quasi il nazista. Ah, ok. E spuntava, e tra l'altro si era l'elettricista della nave, per cui si infilava in la nave, essendo così piccolina e incastrata per gli impianti elettrici, si infila in dei buchi qua e là, in queste botole, allora devi spuntare dal nulla, da una botola che magari non sapevi neanche ci fosse, e attaccava a farti il saluto romano. Oh. Diretto soprattutto a noi italiani. Eh beh, perché ovviamente, pensando, no? No, beh, questi mi capiscono, insomma. Ed era piuttosto imbarazzante, anche perché l'avevi preso a calci volentieri in diverse occasioni, tutto uno che ti sbuca da una botola. Lui era quello di Italia e Serbia, era Ivan Bogdanovic. Ivan Bogdan, che non si ricordava il nome, sbucava dalla vabbè, insomma, bei personaggi, dai. Direi che possiamo ascoltarci anche un pezzo dei Doors. Beh, mai titolo fu più azzeccato, no? Direi di sì. People are strange. A dopo. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. All right, yeah. When you're People are strange when you're a stranger. Erano 2 minuti e qualcosa di goduri, almeno per me. Anche te, anche per te, Marco? Assolutamente, mi piacciono molto. Bene, bene, bene. Ascolta, andiamo verso la parte finale del programma. Nave a parte, mi sembra di capire, quindi ti sposti relativamente spesso, però per periodi non così lunghi, sbaglio? Beh sì, più di 6 settimane non capita di norma. E quindi com'è? Quindi... cioè, vedi magari tanti posti, tante persone diverse, però forse fai un po' più fatica a entrarci proprio a fondo. Beh, sì e no, nel senso, vedo persone diverse assolutamente per tempi che non sono come una persona che si trasferisce in un luogo e ha il modo di prendere, cogliere tutti i particolari di quel luogo. Però ho per contro anche il vantaggio di avere un approccio diverso. Quando ero in nave, quello che era veramente curioso era il livello di cultura diverso che c'era. C'era gente che veniva veramente da ogni angolo del mondo per i motivi più disparati del mondo. Mm-hmm. C'era il padre di famiglia che aveva bisogno di soldi per mantenerli, c'era il single per scelta, c'era lo scappato di casa, c'era di tutto. E invece quando mi capita di andare sulla terra a fare acquisizione, come mi è capitato in Turchia ultimamente, lì è ancora diverso, perché in realtà ti trovi con lo stesso gruppo di operatori con cui ti sposti in giro per sì. le varie aree, e il modo di vedere come cambia una terra da uno spazio a un altro, le attraversi, cominci a avere a che fare con la gente, non solo quella della città, che in tutto il mondo in qualche modo si somiglia, ma cominci a avere a che fare con la gente delle campagne. Quindi diciamo che questo fatto, immagino che il tuo lavoro ti porti in posti abbastanza remoti piuttosto che nelle città, dici, riesci a entrare più a contatto con le realtà dei luoghi, sbaglio? Assolutamente sì, è vero. Poi hai il vantaggio di muoverti con persone, se non del luogo, comunque della nazione, o che conoscono comunque il territorio, quindi a domanda riesci anche ad avere una risposta anche di più ampio respiro. Questa è molto interessante. Quando ero in Turchia, sempre l'ultima volta, mi sono trovato con questi operatori curdi che venivano dall'est più depresso della Turchia, e che la viaggiavano tutta da anni per dare servizi a chi faceva acquisizioni geofisiche in giro. Cioè, attraversavano la Turchia? Sì, accompagnavano, sì, perché la Turchia è un Turchia, ma come può, adesso succede in Cile, in Ecuador, in tutti i posti che sono in via di sviluppo, in via di forte sviluppo, stanno acquisendo dati geofisici più o meno dappertutto e molto rapidamente, perché cercano fonti di energia, perché ne hanno bisogno. Ho capito. E quindi sono queste società che danno servizi di logistica, ti danno le macchine, in sostanza, gli operatori per piantare le stazioni riceventi, e questa gente che per anni prende e comincia a girare, gira per 3, 4, 5, 10 anni, e quindi conosce i luoghi. Ok, quindi tu hai anche modo, insomma, parlando con queste persone, di avere degli spaccati diversissimi, no? Dei paesi in cui ti trovi. Quindi, insomma, Ricky, abbiamo visto che potrebbe essere un modo diverso. Noi abbiamo sempre affrontato prendere e andare all'estero, sì, però, questo con base noi in Italia, però ti dà la possibilità di muoversi e sì, ci vuole una laurea del Politecnico di Milano, credo sia cosa vabbè, però come diciamo alternativa al prendere e scappare, sì, scappare, no? Studiate e scappate per breve tempo e poi fatevi la vostra base qui, insomma. Beh, più o meno il succo ho intuito, o... Sì, non è semplice, non è un'opportunità che hanno tutti, mi rendo conto, però è bello. Ti piace? Perché davvero la possibilità di vedere un punto diverso di vista rispetto al prendere e trasferirti altrove è un'altra cosa. È come, diciamo che è come fare una, passami il termine, una vacanza lavorativa sotto un certo punto di vista, perché vai là per lavorare, però comunque ti trovi con gente del posto che ti spiega le storie del posto, la tradizione, eccetera eccetera, entri a contatto, però dopo te ne torni a casa tua. Beh, vacanza forse un po' troppo, però è una bella esperienza, ti permette di vedere cose che diversamente è molto difficile non vedresti rimanendo di base qui, insomma, quindi sì, ci può stare. Come... Assolutamente, sì, decisamente sì. Bene, bene. E, quindi, beh, hai detto che hai minimo preavviso di qualche giorno, quindi non sai, insomma, dove ti troverai tra la prossima volta. No, effettivamente proprio no. Ecco, un'altra cosa ti volevo chiedere. Tu, quando hai accettato, insomma, questo lavoro, o l'hai cercato, sapevi che prevedeva delle trasferte, quindi questo a contatto magari nel... Anche lì sapevo che sarebbe potuto succedere di andare occasionalmente qua e là. In realtà poi la situazione è cambiata, nel senso che poi sono cambiate le condizioni di mercato e c'è stato più bisogno di andare fuori rispetto a quello che avevo preventivato. Capita, quando uno accetta un mestiere non sa mai fino in fondo cosa succederà da lì a qualche anno. Certo, ma perché limitarsi anche, o perché magari impaurirsi? Cioè, prendiamo la palla al balzo, no? Assolutamente, se questa cosa, se uno la prende quanto capita, quando la prende, quando poi... Esatto. Bene, dai, abbiamo avuto un'ulteriore spaziettatura, cioè quando abbiamo iniziato il programma abbiamo detto, beh, parliamo di italiani all'estero, e in realtà ci sono milioni di spaziettature per poter vivere la propria vita, diciamo, aprendosi un po' le porte e gli orizzonti oltre le natie sponde, insomma. Marco, ecco che guarda, mi sono preso questa licenza. Commuovetevi, ragazzi. Infatti. A proposito di commuoversi, dammi i contatti, che non c'entra nulla col commuoversi, ma appunto che no, non c'entra nulla ormai. Dai, siamo, vabbè, trasmettiamo da 102 a 200 per chi non lo sapesse ancora, e il nostro sito è www.radiosandona.it, ascoltate qui in streaming, e ci trovate su www.nowboardingradio.wordpress.com, il nostro blog, oppure su Facebook Nowboarding Radio, scritto semplicemente così, la mail se volete contattarci, scriverci domande, chiarimenti, nowboardingradio@gmail.com. Direi che abbiamo detto tutto. Ho detto tutto. Io vi segnalo anche www.vogliovivecosi.com, un nostro sito amico. Loro dicono un portale per chi vuole cambiare vita ma non sa ancora come, e insomma fanno cose un po' simili alle nostre. E te sei il computer, Marco? No, mi si è spento. Ah, ecco, avevo ancora... sentito, avevo Windows, eh? Windows era. È il computer del lavoro, da noi solo Microsoft. Immaginavo. Da te mi sarei aspettato un Mac, però, eh? La mia ragazza ce l'ha. Ecco. Quindi c'è un po' una rivalità. Bene, Marco, noi ti ringraziamo e... buon viaggio per la prossima trasferta, chissà dove sarà, però insomma fatti sapere se mai. D'accordo, io ringrazio voi. Bene, bene, bene. Grazie, grazie a te. E come ultima traccia, andiamo un po' dalle tue parti, Ustmamo, gruppo indipendente italiano degli anni 90, con una cover ma anche parodia di Orietta Berti, pensa un po', Finché la barca va, ovvero Ricky. Finché la barca va, quindi lasciala andare. Anche questa è adatta. Bene. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì, sempre con Nowboarding. Ciao. Ciao Ricky, ciao Marco, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, grazie.